soprammobile, perché mi prendi sempre il contropiede. Quando poi soprammobile la notte, allora non va bene. Lo sai benissimo che io gioco come giochi tu, quindi posso andare con 1 watt, 10 watt, 5 watt, ma posso andare neanche oltre 1000. Quindi quando poi rompo i coglioni io, nessuno è, capito? Io sono non coerente, mentre invece fai le cose tu, quindi tutto va bene. Va bene, non c'è problema. Non c'è problema tu. Io va bene così, non aggiungo altro, va bene così. Continua a giocare, va bene così. Vabbè, se mi chiedi scusa ti perdono. Io scusa, non te ne chiedo perché non ho sbagliato, quindi. Vabbè, non ti perdono. Pensavi di farmi incazzare, hai sbagliato serata, perché non mi incazzo per niente, capito? Io mi incazzo quando faccio qualcosa, quando mi fanno qualcosa, siccome non ho fatto niente non mi incazzo, perciò se giochi tu giocano anche gli altri, se poi a te ti va bene giocare per gli altri non va bene così, non c'è problema. Io sono con 10 watt, rimango con 10 watt, come vedi, non ho sollevato né la voce, non ho fatto niente che ti possa aver dato fastidio, quindi per me va bene così, non c'è problema. Scusa, un bisticciante, se il bisticciante non c'entro più in questo canale. Ma no, abbiamo due piccioni che non affanno, Mamma mia, Fabio, un bisticcio nessuno. Sto dicendo quello che mi spetta di dire. Per la difesa, niente, perché l'attacco c'è già. Tanto ogni volta che entra Antonio mi attacca, quindi alla fine mi conviene stare zitto, ho 53 anni. Oie, scusa me, mi sono rientrato, mi dico grazie di gallino di 20 getti. Non posso continuare a fare la diamantola, no? Facciamo la pace, non facciamo la guerra. Cioè, io ho preso un pezzo di... carta, riprendo fra un secondo. Riprendi Gianni, riprendi. Perché Gianni hai fatto drumming. Buonanotte a tutti, sentiamo, fatemi bene. Un bacio Gianni. Ma devo andare via senza dare un bacio. Grazie. Alla fine ciò che ho sentito io tra te e Gianni in un discorso di qualche giorno fa su questo canale è la pura realtà, guarda. Quella ventola sembrava che fosse dentro l'aereo. Non lo sono ritirato. già ci vengo anch'io. Credo proprio di ordinare addirittura. settimana a settimana li hanno bocciati tutti, anche quelli. Anche quelli che approccia. E se non è passato nemmeno uno, cazzo, su quanti eravamo? Una quarantina, mi pare, o trentina, boh, una quarantina, 39, nemmeno uno mi è passato. Della sezione che ha proposto, non sono conformato. E vabbè, io comunque li programmando, poi sta lui studiare o non studiare. E io avrei pure una gana studia, se no preso per lui, ora tipo su di altro non li puoi fare. Ehi, già, non so, già riesce a muoversi bene, dai. Quello che mi ha sistemato con l'amplificatore. Già si va a fare, perlomeno come componentistica già bravino, poi in realtà seguirsi bene le normative e fare qualche cos'altro, ma come componentistica già si arrangia, insomma già riconosce i componenti, qualche formuletta già se la sa fare, speriamo bene fare l'animatore lì a Iglesias. Lui non sarà mai preso la patente, adesso si va a voler prendere. È meglio così, già. Speriamo bene, sto rompendo le sbaglio di questa storia, sperando, adesso vediamo la prossima volta come sarà, se come sempre ti rimando a fanculo, non ci provo più a guardarlo lì e me ne vado fuori, vediamo un po', speriamo che facciamo le cose come devono essere fatte, però pace. Me lo auguro per tutti. Chissà, non lo so. Io se c'è posto vengo con te, se no vado lo stesso. Prendo anche mio cognato, vado. Spero di tirarmi il nulla osta. Mi sono venuti a controllare da poco e quindi che non c'ho nulla osta, allora glielo prepariamo, glielo facciamo. Capito, sì. Va bene, dice che io mi allontano 11:30, infatti me vado, spengo tutto qua, che tanto, che c'è anche la porta aperta per nonna, perché se non c'è troppo caldo, se non disturbo, che purtroppo adesso sta iniziando il caldo qua. Cercando sì, vabbè. Va bene, dai, ci aggiorniamo, Fabri, non c'è problema, stammi bene, buonanotte, avanti Antonio, riprendi te. Buonanotte a tutti, salutoni, a chiunque ci sia domani.